want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. Di Gegé Telesco. Siamo in onda? Sì, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti da Gegé Telesforo. Questo è il soundcheck di Radio 24 e questo in versione multimediale, tridimensionale, a colori, quasi un arcobaleno, Renzo Arbore. Eh sì, in versione DJ, come un tempo, perché io sono ancora il presidente dell'Associazione Italiana Disc Jockey e quindi sono stato con Boncompagni il primo DJ nella storia della radiofonia italiana e rimango legato a questo mestiere. Se tu mi inviti a parlare di un jazz, di un cantante, di un gruppo, io mi scateno, sì. Semplice. E faccio anche delle compilation per uso mio soltanto, per comodato, io le faccio a casa mia e poi me le sento in macchina e dico come sono bravo. Senti, a proposito del periodo radiofonico della coppia Arbore e Boncompagni, ho saputo che dei due quello lavativo era Gianni, no? Sì. E che alla fine un giorno se ne uscì con una frase che per me è rimasta proprio, l'ho stampata e l'ho incorniciata, ma se vuoi diceva, te la dico io, che diceva, non si può fare la radio senza farla. Che, ecco, che ma significa? Perché disse così? Perché noi avemmo talmente tanto successo che chiedemmo prima alla RAI di fare le repliche notturne, quindi insieme alle edizioni diurne andavano le repliche notturne, poi di farle anche il sabato e la domenica che erano altri giorni, poi di fare d'estate il meglio delle cose fatte, quindi tutto montaggio di cose fatte durante tutto l'anno, e però ci toccava un attimo lavorare anche per registrare montaggio. Delle cose e un nuove, giorno Gianni proprio con il cuore in mano seriamente mi disse: ho capito che non si può fare la radio senza farla. Sperava finalmente di guadagnare e di fare facendo lavorare gli altri o comunque non facendo la radio ma approfittando di tutto il materiale già registrato. Invece come vedi, noi la radio la stiamo facendo, come no, e in questa prima settimana di programmazione del nostro soundcheck abbiamo deciso di avviare i nostri radioascoltatori all'uso e al corretto utilizzo dello swing. Come no. E quindi, siccome abbiamo aperto con Ella Fitzgerald, ieri abbiamo aperto con Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Stai scrivendo la lettera a Papa Francesco per la beatificazione di Ella? Sì, la sto portando avanti, però sto parlando, sto passando prima per la curia. Ah, ecco. E quindi, sì, mi hanno detto che la curia cura. Parti queste, dal parroco di zona. La curia cura queste pratiche. Allora, capito, bisogna passare per la curia, va bene. Allora, per aprire la puntata di oggi ho scelto Nat King Cole, che oltre a essere il cantante che conosciamo, un eccellente pianista, era comunque un signore e anche molto elegante. È stato il primo nero a condurre un programma televisivo nella storia della televisione americana. Lo trovate anche sulla rete, Nat King Cole, bravissimo, perché esistono molte testimonianze. Lui faceva appunto programmi televisivi anche cantando ed era un uomo elegantissimo, padre di Natalie Cole, di cui si parla proprio in questi giorni sui giornali, perché è uscita da una lunga crisi ed è ridiventata una star. Nat King Cole era talmente modello di un cantante swing che quando ero piccolo, devo dire la verità, mi dispiace parlare di me, ma mi chiamavano Renzo King Arbore perché io lo imitavo spudoratamente. Del resto Nat King Cole è stato imitato da tutti i cantanti neri debuttanti. Scuola, no? Ray Charles, se vedete il film, ha cominciato imitando Nat King Cole. E molti altri cantanti di colore hanno cominciato imitando il modo di cantare di Nat King Cole, grandissimo pianista. Che comunque era inimitabile. Senti, chiedimi, domandati. Qual è un classico di Nat King Cole? No. Qual è la strada americana più famosa? Ah, sì, ecco, bella intuizione. Renzo, per presentare il brano di Nat King Cole, qual è la strada più famosa degli Stati Uniti? Tu che pensi? La quinta, Fifth Avenue. No, la strada più famosa degli Stati Uniti è Route 66. Ma guarda, ma è la strada che percorre gli Stati Uniti e che porta in California, San Bernardino. Come tu, si tu fa? L'hai fatto il viaggio sulla e come Route no, 66. Quello è un viaggio obbligatorio per conoscere veramente a fondo gli Stati Uniti. Poi del resto adesso ci sono i manifesti, si vendono le targhe finte di Route 66 dopo il successo di questa canzone cantata per la prima volta da Nat King Cole, Route 66. I get your kicks on Route 66, la voce di Nat King Cole qui al soundcheck di Radio 24. Complimenti, perché oggi, caro Lorenzo, mi sento abbastanza leggero. La tua Marites con questo come lo chiama quel piatto filippino che ha preparato? Che però un po' di aglio lo sento. Sì, è detto in filippino antico, perché e quindi io non me lo ricordo. Il filippino moderno, io su per giù me la cavo. Il filippino antico, guarda, è come il greco antico, non riesco a memorizzarlo. E quindi è una cosa di. Ci sono molte consonanti e pochissime vocali. Capito? Allora, siamo vicini, poi serve. Potrei anche irrogarti. No, perché appunto, per tutte le pile ti potrei irrogare, che oltretutto è sbagliato, perché è una parola irrogare che io con le remosce non posso dire. Uno spazzolino pulito di quelli da vabbè, quello adesso mi vado a lavare i denti, perché vabbè no, ma dico su, non mi chiedere più il piatto filippino che ha fatto la mia filippina. No, allora però facciamo una breve pausa e torniamo fra pochissimo, mi auguro, anche con un alito un po' più sì. radiofonico. Soundcheck. Il suono della musica. And your little brother's Fluffy and Muffy. How you gonna do what Mama intended? I know your carriage stealing is ended. I've heard the old story. One rabbit's gonna bring luck. John Hendricks, Dave Lambert e Annie Ross al soundcheck di Radio 24 con Cotton Tail, un altro classico di Duke Ellington, in questa settimana dedicata allo swing più sì. che al jazz, no? Perché quando si parla di jazz, Renzo, il repertorio diventa molto vasto, ma lo swing invece. Posso chiederti una cosa stavolta sì. io a te, eccetera, perché come tu sai, le persone non giovani, insomma, io appartengo ormai a quella categoria, e alcune volte soffrono di amnesia. Sì. No? E domandami da quanto tempo. Da quanto tempo? Da quanto tempo che? Soffri di amnesia. Che? Questa è una vecchia battuta che abbiamo riciclato. Dottore, soffro di amnesia. Da quanto tempo? Da quanto tempo che? Soffri di amnesia? No, è la battuta. E non l'avevo capita. Ah, e adesso l'hai capita finalmente. Oddio, allora la devo rispiegare. Dottore, soffro di amnesia. Da quanto tempo? Da ma quanto tempo che? Ma lo stai chiedendo a me? No, non lo sto chiedendo a te, è no, la battuta. Ma io non capisco più non quando fai la battuta. Non capisco la sì, battuta, perché la vuoi rifare? No, non la voglio rifare. Mi pare che il pubblico l'ha capito, tu no. Senti, allora, soffrendo di amnesia, vorrei sapere come si chiama lo stile del trio Hendrix, Lambert e Ross. Allora, vocalis. Ecco, bisogna dirlo così però. No, sì, bisogna dirlo così. Che significa? Che cosa significa? Che il signor John Hendrix, che è il grande maestro, oggi è novantenne John Hendrix. Io ho anche avuto l'onore e il piacere di duettare con lui, di registrare dei dischi e via dicendo. Il signor John Hendrix, insieme a altri signori come Eddie Jefferson, King Pleasure, aveva la pazienza di scrivere testi, ovvero di parolare addirittura gli assoli dei grandi musicisti di jazz. E il trio Hendrix, Lambert e Ross è riconosciuto nella storia del jazz come la prima formazione vocale ad aver fatto questo tipo di operazione, trascrivendo e parolando addirittura gli arrangiamenti delle orchestre, dell'orchestra di Count Basie, con un album intitolato Ribadiamo, si chiama Vocalize. Vocalize, detto Vocalize. Allora, dallo stile vocale unico di Hendrix, Lambert e Annie Ross, invece ha uno stile al quale tu sei molto affezionato. Stiamo parlando del swing manouche. Manouche è un termine che per la verità mi è sopraggiunto un po' in ritardo, perché naturalmente io sono purtroppo coetaneo quasi dello stile originario, che era dovuto a un grandissimo chitarrista, praticamente un chitarrista europeo, francese in particolare, che ha inventato un modo di suonare la chitarra assolutamente straordinario, che è stato, diciamo la verità, il primo musicista di jazz europeo famoso in tutto il mondo. Ci sono stati tanti musicisti anche italiani, ma Django Reinhardt era molto molto molto famoso. Django Reinhardt suonava con tre dita e sì, proprio perché gli mancavano diverse dita. E ciononostante forniva un ottimo background ai solisti, in particolare ai violinisti, ma mi pare in questo disco anche a un fisarmonicista, perché veramente suonava la chitarra in maniera non soltanto melodica, armonica, ma anche ritmica. Esatto. Ecco, e quella qui era c'è l'erede proprio di Django, sì, Reinhardt, che è Binelli Lagrène. Chi anche ha dedicato un film a Django Reinhardt, Woody Allen. Ah, certo, ecco. Certo, Woody Allen, bellissimo il film di Woody Allen dedicato a Django Reinhardt. Infatti si chiamava Ziggy Stardust. Esatto. Ecco. E quindi proprio attraverso un chitarrista che imita Django Reinhardt e che si chiama Bucky Pizzarelli, che verrà probabilmente al mio recital, come dice, a New York. A New York. Allora, e adesso però questo genere, questo stile lo esegue Binelli Lagrène, musicista formidabile, anche molto versatile, ma appassionato di swing manouche, che qui ci fa ascoltare proprio questo brano intitolato Daphne, una composizione scritta da Django Reinhardt e Stéphane Grappelli molti molti molti anni fa, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci pronti, operativi dalla Swing House di Renzo Arbore, per questa prima settimana del nostro Soundcheck su Radio 24. Siamo pronti per ascoltare un altro estratto da questa pubblicazione americana di Renzo, Renzo Arbore and the Arbore Originals, un'operazione che vede il maestro anche cimentarsi in alcuni duetti e soprattutto accompagnato da una ottima band italiana, e qui proponi tutte canzoni italiane ma nella versione inglese americana. Come mai questo tipo di operazione? Sono ballad, per affrontare il mercato americano. Sì, io sostengo che alcune canzoni italiane sono assolutamente straordinarie, pari alle canzoni classiche americane di Gershwin, Berlin, Cole Porter eccetera, come questa che ho scelto. Per esempio, questa è una canzone di Carlo Alberto Rossi, un classico straordinario. La canzone è bellissima, anche se in italiano viene un po' ridicolizzata qualche volta, perché c'è la frase "e sottolineo se", che era tipica di un paroliere che si chiamava Testa, che ha scritto altre canzoni con delle intemperanze letterarie. E se domani in americano si chiama "I know it's over", e praticamente io so che è finita, che il nostro rapporto è finito. È una canzone sentimentale bellissima, triste, molto, molto triste, cantata, ahimè, da sottoscritto. La vuoi dedicare a qualcuno? I know it's over. No, preferisco di no. Bene. Oh, it's so crazy. Why can't you see? Don't make our love just a memory. I know it's over. For you, it's over. But not for me. Allora, siamo in chiusura e da I Know It's Over, nella versione americana di Renzo Arbore, lo ricordiamo, Renzo il 14 di ottobre si sposterà, anzi ti sposterai a New York qualche giorno prima per fare le prove con musicisti meravigliosi, hai scelto tutti i musicisti italiani. Dado Moroni in testa. Mamma mia, Dado Moroni, parleremo di Dado Moroni nelle prossime puntate, musicista italiano, pianista formidabile. Ti esibirai da Italy, che è questo grande centro di cibo italiano, che grande successo, grande Union successo. Square, c'è questo, c'è la fila fuori e praticamente abbiamo scelto con Mr. Farinati, che è il boss eccetera, di festeggiare e di presentare non soltanto una mia cosa, ma anche un film su Mina e un libro di Baricco. E quindi ci sarà un po' di Made in Italy in occasione del Columbus Day, che proprio quel giorno capita. Allora, tu prima parlavamo di John Hendrix e qui voglio chiudere con un brano che in qualche modo mi vede protagonista, perché qui duetto in questa registrazione fatta nel 95 a New York per Lago Jazz di Ben Sidran con due maestri, John Hendrix e Clark Terry, che è uno degli eroi del jazz con la sua tromba, ma anche l'inventore di quello che universalmente viene riconosciuto come stile vocale, il mumbling, il mumbles, ovvero il mugugno. E allora ti dedico questo mugugno. No, devi spiegare un attimo meglio il mugugno. Beh, se sarebbe una specie di brontolio. Non è il brontolio, il brontolio è un'altra cosa. Il mugugno invece è quasi, quasi un ripensamento. È quello. Il brontolio è diverso, Renzo, è un altro tipo di forma si usa per il brontolino. Comunque in America non si chiama mumble. Si chiama mumbles, il mumbling, che non è il brontolio, eccolo qui. Soundcheck. Il suono della musica.